sostanzialmente è stato un tentativo di colpo di mano, possiamo dire, da parte del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, che ricordiamo è stato democraticamente eletto poco più di 2 anni fa, che ha cercato con questa mossa totalmente inaspettata, sia per la popolazione ma anche per il suo stesso partito, di assumere poteri che vanno ben al di là da quelli che gli sarebbero consentiti, imponendo la legge marziale, inviando militari nei luoghi principali del potere, soprattutto presso il Parlamento, adducendo una serie di motivazioni molto vaghe e molto pretestuose, come il fatto che appunto il Parlamento stesso fosse dominato da forze pro-Corea del Nord, forze antistato, antisistema, che volevano rovesciare la democrazia liberale in Corea del Sud. Quindi sostanzialmente di questo si è trattato, di questo tentativo anche un po' maldestro e comunque tragico, anche se poi è finito bene, di cercare di imporre il proprio potere da parte del Presidente. Ecco appunto i pretesti, li hai ricordati, si tratta di capire, non so se sono speculazioni, le vere ragioni per cui ha tentato questa mossa. Le vere ragioni sono un quesito che rimane ancora aperto a poche ore di distanza dai fatti stessi, perché appunto come dicevo prima è stata un'azione molto inaspettata da tutti i punti di vista. Probabilmente i motivi si possono far risalire alla crescente impopolarità dello stesso presidente presso l'opinione pubblica, riscontrata da molti sondaggi e soprattutto dalle elezioni parlamentari che ci sono state ad aprile e che hanno dato una netta maggioranza all'opposizione, al Partito Democratico, ma anche legate al fatto che all'interno dello stesso Partito Conservatore di Yoon erano presenti forti tensioni con una crescente maggioranza degli esponenti del partito che in qualche modo si opponeva a tutta una serie di posizioni che erano portate avanti dallo stesso presidente. E non da ultimo bisogna anche ricordare che lo stesso presidente e alcuni membri della sua famiglia, soprattutto la First Lady, da mesi sono oggetto di tutta una serie di domande, di richieste di investigazioni da parte dell'opposizione su una serie di questioni legate a possibile corruzione o altre, diciamo, azioni improprie portate avanti dalla First Lady. Ovviamente il presidente si è sempre opposto a queste azioni, ma anche questo sicuramente ha contribuito ad esacerbare la situazione e probabilmente a spingere il presidente verso un'azione di questo tipo molto estrema. Il coinvolgimento della Corea del Nord nel conflitto ucraino ha un qualche ruolo nella percezione, almeno in Corea del Sud? Ma non credo proprio che questo coinvolgimento abbia un ruolo. Devo dire che in Corea del Sud è vissuta in maniera molto poco rilevante questa partecipazione di alcune migliaia di soldati nordcoreani alla guerra in Ucraina, che ha sicuramente molto più risalto, e anche giustamente, nei media europei, che sono più coinvolti dal conflitto in Ucraina. Questo fatto è stato utilizzato dal governo negli ultimi mesi ovviamente per cercare di aumentare anche la percezione di una minaccia nordcoreana che non sia solo una minaccia alla Corea del Sud, ma che sia diventata una vera e propria minaccia alla stabilità e alla pace a livello internazionale. Questo a livello di governo, ma a livello di popolazione sudcoreana non ha praticamente alcuna rilevanza questo sviluppo. Proprio oggi è stato già chiesto l'impeachment, cosa potrebbe succedere ora? La carriera politica di Yoon Suk-yeol è sostanzialmente finita e ci sono pressioni all'interno del partito, c'è stato anche un incontro poche ore fa fra i principali esponenti del Partito Conservatore. La mia idea è che quella che si cerchi di spingerlo verso le dimissioni che al momento non sono arrivate. L'opposizione ha già depositato una richiesta di impeachment in Parlamento che verrà votata o venerdì o sabato, è stata presentata da 190 parlamentari, ne servono 200 perché l'impeachment sia approvato, quindi i numeri al momento non ci sono, ma prevedibilmente ci saranno per la votazione finale di venerdì o sabato. Se dovesse effettivamente essere approvato l'impeachment, poi passerà alla Corte Costituzionale che lo deve approvare. Se anche questa fase verrà approvata, da quel punto ci saranno 60 giorni di tempo per organizzare nuove elezioni presidenziali. Nel frattempo, diciamo, il capo di Stato ad interim sarebbe il primo ministro, che si è già reso disponibile a ricoprire un incarico di questo genere per traghettare il paese verso una nuova presidenza. Comunque, che sia impeachment o che siano dimissioni, non credo che ci sia più margine per Yoon Suk-yeol nella vita politica del paese.